Achille Rossi e poi ultimo, ma certo primo in tutta l'impresa, il nostro caro Monsignor Luigi Sartori, che siamo tanto lieti di aver di nuovo tra di noi e che è stato praticamente il coordinatore ed è il coordinatore di tutto questo lavoro. A lui passo subito anche la presidenza e il coordinamento delle nostre riunioni stesse. Come vedete, proprio questa volta il nostro istituto si occupa di un'attenzione alle religioni in grande, così come possiamo, soprattutto in un incontro concentrato come il nostro. Ma se c'è un caso dove il nostro istituto si ricorda di essere istituto di scienze religiose, vero che deve attenzione a tutto il fenomeno religioso nelle sue manifestazioni più varie, è proprio in questa occasione e in questa giornata. Io ho l'impressione che quella osservazione che avevamo fatto l'anno scorso in occasione dell'incontro sull'islamismo, per cui il problema non è tanto facile, non ci si può limitare a una considerazione di così totale equidistanza da ogni religione senza prendere sul serio il problema religioso. Quella posizione così quasi dico scientifica per convenzione, che ci consente di osservare, almeno come metodologia, vero, un distanziamento uguale verso tutte le religioni, ma proprio per questo si complica e diventa vivo il problema, perché non può accontentarsi di un ragionamento in astrazione, ma prendendo sul serio, in ogni caso, il problema religioso, vero, il contatto, il confronto, l'attenzione reciproca, vero, acquista una dimensione che è tutta particolare e penso che in questa occasione essa si presenterà in tutta la sua vivezza. Saluto in modo particolare tutti quelli che hanno a cuore il colloquio interreligioso e i problemi dell'ecumenismo. Saluto poi tra tutti gli ospiti, o anche per tutti gli ospiti, il Vescovo di Bolzano e Bressanone, che è con noi non solo come delegato vero, della zona, della provincia, del Triveneto per l'ecumenismo, ma primariamente e soprattutto come membro consigliere più illustre del nostro comitato scientifico di scienze religiose a cui egli fa parte fin dalla fondazione stessa dell'Istituto e noi riconosciamo il fatto della sua presenza questa sera e della sua presenza attiva domani a presiedere la tavola rotonda come un'altra prova irrefragabile dell'interesse che egli mantiene per il nostro sforzo di ricerca e per il nostro lavoro. Auguro a tutti buon lavoro e passo la parola subito a Monsignor Sartori, al quale, dico la verità, abbiamo pensato molto anche in questi giorni ad Aquileia. Io trovavo spontaneo di dire a più di uno degli amici, stando più nei gruppi di studio e sentendo il taglio del prato, come dicono i trentini, così il colloquio spontaneo che viene fuori da parte di teologi e curatori d'anime e così via, lo spirito di Monsignor Sartori a quel livello aleggiava potentemente e credo che senza di lui il discorso sarebbe stato molto diverso. Anche per questo mi felicito con lui e calorosamente gli auguro un felice soggiorno con noi. È il nostro presidente, come lo sapete, il presidente della prima dignitas dunque del nostro comitato scientifico dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento, quindi io umilmente mi ritiro in buona disparte perché adesso tocca a lui portare avanti il discorso. Bene, noi dobbiamo realizzare un convegno compattato, compact disc, moderni quindi. Quando abbiamo iniziato questi convegni anni fa, avevamo bisogno di 3-4 giorni, poi li abbiamo sempre più ristretti per non perdere tempo. tempo. Allora, per questo io ho sollecitato di iniziare senza perdere ulteriore tempo questo nostro incontro. Allora, di nuovo, io ringrazio il direttore che in questo momento è sotto di me e ho l'onore di avere anche un vescovo sotto di me. Io sono presidente di un gruppo in cui lui è semplicemente membro. Guardate che onore. Beh, allora ringraziamo Dio di poter fare questo lavoro che è veramente, penso, interessante rispetto al futuro. Sentiamolo come un impegno di fronte alle stesse generazioni future e pensiamo all'Europa unita, che non è soltanto l'Europa dell'Est e dell'Ovest, ma l'Europa che ormai accoglie il cosiddetto Sud e l'Oriente. Io, in timore, lo verificherò, di non avere la voce sufficiente, non tanto il tono, ma quanto l'articolazione per la mia malattia, ho fatto uno sforzo di scrivere tutto quello che dovrei dire in questi giorni, in modo da essere non handicappato del tutto. E allora leggo, ma penso che l'introduzione serva anche per fissare subito, chiaramente, i limiti e il significato del nostro incontro. Poi per le altre cose le leggerò man mano che entreremo nell'occasione. Tema specifico dell'incontro è il pluralismo religioso, come fatto. Nella valutazione teoretico-pratica che ne danno le singole religioni, diverse religioni. Dunque, teoretico-pratica, cioè come lo interpretano questo pluralismo e secondo, con quale atteggiamento lo affrontano. Mi permettete una chiosa per qualcuno, io sono vecchio, quando prima del concilio avevamo una cosiddetta dottrina dello Stato nel diritto pubblico ecclesiastico o nella teologia rivolta al diritto, io ricordo, sentite una certa analogia, si distingueva in quella teoria tra tesi e ipotesi. In linea di tesi lo Stato dovrebbe essere confessionale cristiano, come c'è stato l'impero cristiano, come nel Medioevo c'è stata la Christianitas. Solo in linea di ipotesi storica si concedeva che lo Stato fosse laico, però allora almeno i concordati. La domanda potrebbe essere questa: in linea di tesi, ogni religione cosa dice del pluralismo? È un male? Un minor male? È un minor bene? È un bene? In linea di ipotesi, allora, ogni singola religione cosa dice, come si atteggia di fronte al pluralismo religioso? Lo tolleriamo? Con quale spirito? Dialoghiamo? Lo vogliamo demonizzare, abbattere? Ecco, un'analogia che qualcuno di voi più anziani potranno anche intuire, capire. Io l'ho fatta partendo dalla mia esperienza, ma mi interessa che sappiate cosa si diceva nella teologia della scuola cattolica. Il fatto del pluralismo fa problema soprattutto perché sta diventando oggi in maniera crescente, con presenza attiva, non le singole religioni dislocate geograficamente e nel tempo per restare lì, ma ormai interazione attiva, spesso missionaria. Anche certe religioni che si dichiaravano una volta non missionarie sono diventate missionarie, quelle orientali, o addirittura di stampo proselitista, e quindi facile occasione di conflittualità. Ecco il fatto, riassunto in breve. Dunque, con presenza attiva di varie religioni o movimenti religiosi dentro una stessa area geografica ed umana. Per questo occorrerebbe dar voce, dare la parola alle singole religioni. Non basta più che la teologia pastorale cattolica, cristiana, da sola abbia voce, presenti da sola la sua propria soluzione, col rischio di presa di posizione ancora parziali e unilaterali. Si dovrebbe ascoltare la voce diretta di tutte le singole religioni. La pace dipende anche dal consenso che si può realizzare su orientamenti comuni elaborati attraverso il contributo delle singole parti in causa. Attualmente l'interesse della pastorale, certamente almeno in Italia ma anche altrove, è rivolto soprattutto al fenomeno dei nuovi movimenti religiosi, la sigla, che sono sempre più numerosi, contagiosi, non metto avanti un giudizio negativo subito, capillari e quasi spesso sfuggenti. Questo particolare taglio ce l'ha dato Monsignor Egger ed è per colpa sua, grazie, chi lo sa, forse è stata una provvidenza, che abbiamo spostato in anticipo l'incontro, perché lui gradiva di essere presente e giustamente lui sente questo problema. Ma il nostro incontro vuole essere anzitutto teologico e metodologico, non fornire subito ricette. Perciò facciamo riferimento privilegiato alle principali grandi religioni mondiali, anzitutto alle due che col cristianesimo si legano all'area biblica, l'ebraismo in modo diretto e primario nell'area biblica, l'islamismo in modo indiretto, se vogliamo secondario, anche se Basetti Sani avrebbe qualche cosa da dire, padre Basetti Sani, ma vedremo. Quindi questa sera abbiamo questo incontro per ascoltare queste due voci che sono legate all'area biblica, sono voci di fratelli che sentono, partendo da un contesto analogo, perlomeno se non identico, sentono il problema del pluralismo. Invece, alle due asiatiche per eccellenza, che rappresentano oggi una sorta di miraggio per molti occidentali assetati di esperienza religiosa, l'induismo e il buddismo, noi di queste due religioni ascolteremo voci indirette, che non abbiamo la possibilità, almeno noi qui da Trento, a fare riferimento a qualche rappresentante più chiaramente esponenziale, attraverso mediazioni, non siamo riusciti a reperire autorevoli esponenti, attraverso dunque l'eco di due cristiani che hanno tentato dal di dentro di quel mondo di sperimentare l'ospitalità di queste religioni verso il cristianesimo. Dom Lesso, di questo avrebbe potuto parlare meglio di me, padre di Puy, che parlerà domani mattina, ma per lasciare più spazio alla sua relazione sulla risposta cristiana al problema del pluralismo, ho preferito utilizzare un po' la piccola mia competenza di Dom Lesso, con le paginette che poi troverete. Invece, per Raimondo Panikkar, abbiamo chiesto con Don Terrin la voce di un grande amico, che è il professor Don Achille Rossi. Ma l'impostazione prevalentemente metodologica del nostro convegno permetterà di trarre qualche indicazione nel pomeriggio di domani anche per quanto riguarda l'atteggiamento teologico pastorale nei confronti dei nuovi movimenti religiosi. Ecco l'impostazione che io ho tentato di dare. Allora, da questo momento entriamo in medias res. Presento il professor Amos Luzzatto, che è medico chirurgo. Questa mattina ha già fatto operazioni di altro genere. E se avrò bisogno verrò da te. Speriamo di no. Ma ieri sera abbiamo avuto a Padova un bel incontro con il padre Turoldo ed è venuto il suo medico che l'ha operato. Ancona, ha voluto ascoltare le poesie di padre Turoldo, ecco il suo medico, quindi vedete l'amicizia tra medici e teologi e poeti, come beh. Il professor Luzzatto è consigliere della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e soprattutto in particolare della comunità israelitica di Venezia, ma è competentissimo, è appassionato, è da una grande dote, è amico, capace di amicizia, e lo ringrazio soprattutto di questo. Ecco, adesso le do la parola. Io prima di tutto devo ringraziare tutti, ringraziare in modo particolare l'amico Sartori, perché è proprio un amico, e che mi ha sollecitato lui in autunno, mi pare, con questo tema, che immediatamente mi aveva, veramente mi ha entusiasmato, ho detto subito di sì, senza pensarci molto. E vi confesso che dopo ho cominciato a riflettere, perché il tema è molto più grosso e molto più impegnativo di quello che pareva in un primo momento di entusiasmo, però è anche stimolante. E c'è un problema, il tema pone subito un problema di vostra pazienza, perché temo che non potrò essere tanto stringato come sono solito essere, perché non vorrei poi lasciare adito a equivoci o ambiguità. Preferirei che voi stancarvi per un quarto d'ora di più piuttosto che lasciare dei margini di incertezza. Si lasceranno lo stesso, questo non c'è dubbio, ma. E poi temo che bisogna premettere a tutta l'esposizione un minimo di riflessione su alcuni termini che molte volte vengono equivocati. Li ho operati anche poco fa questi termini, si è parlato di tolleranza, di dialogo e di pluralismo, che non sono proprio le stesse cose. E allora io vi pregherei, sia pure sopportando le mie eventuali contraddizioni e insufficienze, di provare a seguirmi questa riflessione preliminare, alla quale poi seguiranno una serie di proposte più che considerazioni conclusive. Quindi la prima cosa che io volevo dirvi è riflettere assieme a quello che non è pluralismo. Prima di riflettere assieme a quello che è pluralismo, pensare a quello che non è pluralismo. Perché secondo me non parliamo di pluralismo quando parliamo semplicemente della convivenza l'una accanto all'altra, di etnie diverse, di religioni diverse, le quali magari si guardano con reciproco rispetto, senza interferire una nella sfera dell'altra, con educazione, senza tentazioni egemonizzanti, però questo non è ancora pluralismo. Questo, per bene che vada, lo potremmo chiamare tolleranza. Tolleranza poi, che è una parola, una bella parola, ma anche brutta, perché tolleranza implica sempre anche la intolleranza, dalla quale si parte per poi raggiungere una situazione di sopportazione più o meno reciproca. Tolleranza vuol dire che ciascuno vive in casa propria e che lascia che anche l'altro faccia altrettanto. Non si costruisce l'amicizia su questa base. E credo che tutta l'esperienza che in alcuni anni abbiamo fatto assieme non sia quella di tolleranza, ma qualcosa di più della tolleranza. Intendiamoci, io non sottovaluto la tolleranza. In determinati momenti, forse ancora oggi, forse non soltanto in epoche storiche passate, la tolleranza è stata una grossa conquista. Per l'amor del cielo, cercate di capirmi, non per rinfacciare niente a nessuno, certamente a nessuno degli attuali viventi, ma proprio in questa città, parlando come ebreo, non posso fare a meno di dire che se ci fosse stata allora la tolleranza di oggi, certi episodi drammatici e sacrifici veri e propri non si sarebbero verificati. Quindi la tolleranza è pur sempre una conquista che non possiamo sottovalutare, però se è fine a se stessa, se è l'ultima tappa che si può raggiungere, è un edificio molto fragile. Se invece diventa una tappa di transizione verso qualcosa di più, verso qualcosa di più costruttivo, allora è un altro discorso. Allora è un discorso molto più attraente, molto più interessante. Ora, la seconda premessa, poi cerco di entrare in argomento, è che io ho accettato anche pensando che è proprio, probabilmente, è proprio la voce dell'esperienza ebraica che può portare in questo campo un contributo originale. Per quale motivo? Parrebbe un paradosso, perché non c'è dubbio che l'esperienza ebraica, per motivi storici, per motivi culturali, per tanti motivi che non analizziamo in questo momento, è vero che l'esperienza ebraica è anche consistita in una gelosa autoconservazione, malgrado pressioni assimilatorie, vessazioni e persecuzioni. Quindi questa gelosa autoconservazione parrebbe aspirare più alla tolleranza della maggioranza nei suoi confronti che non in quel qualcosa di più al quale accennavo poco fa. Però è anche vero che più di 2000 anni di diaspora, di dispersione, hanno significato soprattutto la necessità, io lo chiamo, di immergere la propria cultura specifica ebraica in una specie di bagno di altre culture. E questo è stato inevitabile, è stato nei fatti. Qualche esempio fugacissimo, tanto per fissare le idee. L'ebreo alessandrino di Alessandria d'Egitto classica era certamente profondamente ebreo, ma incredibilmente ellenista. Allo stesso tempo, contemporaneamente, la traduzione della Bibbia, si parlava di comune esperienza biblica, la traduzione biblica dei 70, che tanto ha contato per la Chiesa, è una traduzione che è servita alla comunità ebraica egiziana, alla comunità ebraica alessandrina, era la sua traduzione. Filone Alessandrino, un'altra citazione tanto per fissare le idee. Mi dispiace che ancora non sia presente l'amico Fuad, ma l'ebreo della Spagna islamica era talmente imbevuto di cultura islamica, di cultura araba, diciamo più che, ma anche islamica, che, non so, Mosè Maimonide, il massimo filosofo ebreo del Medioevo, scriveva di filosofia ebraica in arabo. C'è addirittura l'esempio forse più clamoroso, che fino al 1800 uno dei, un eminente rappresentante della comunità ebraico spagnola, che era conosciuto dalla Chiesa e dal mondo europeo latino col nome di Avicebro, con alcune deformazioni, varie deformazioni dovute alla lingua parlata, altri non era un filosofo arabo, non era un filosofo musulmano, ma era un filosofo ebreo che si chiamava Ibn Gabirol, e fino al 1800 tutto questo dettaglio, questo particolare, non era conosciuto. È stato scoperto come grande sorpresa nel 1800, tanto la compenetrazione, la influenza reciproca di queste culture e dello stesso pensiero filosofico religioso era presente in questa comunità. Io vorrei ricordare ultima cosa, ma poi procediamo, che persino uno dei capitoli più affascinanti e più dolorosi della storia moderna, quella che è stata chiamata la incredibile simbiosi culturale ebraico-tedesca, che è durata più di un secolo, con influenze reciproche incredibili, che non è quel caso di analizzare perché a noi interessa in questo momento più il problema religioso che non il problema culturale in genere, che però non posso fare a meno di richiamare, questa simbiosi che è cominciata alla fine del XVIII secolo e che è stata troncata soltanto dalla violenza dal 1933 in poi, dalla violenza nazista, dalle leggi razziali, eccetera, altrimenti non sappiamo. Quindi è un'esperienza, quella ebraica, diasporica, sulla quale bisogna riflettere. Dobbiamo riflettere prima di tutto noi come ebrei e dobbiamo chiamare anche voi a essere insieme con noi con questa riflessione. Perché abbiamo avuto delle esperienze comuni per questo nostro essere stati sempre ebrei e anche qualche altra cosa, che purtroppo in tempi non troppo lontani, spero passati, è stata considerata una colpa quando c'era questa immagine, come posso dire, di persone pure, omogenee, uniformi, che dovevano appartenere soltanto a un gruppo, che non potevano avere carichi di cosiddette ambiguità, che, ai quali si rinfacciava la doppia appartenenza, un'ambiguità di doppia appartenenza. E siccome abbiamo parlato di Bibbia, questa accusa mi fa pensare all'accusa antichissima del faraone in Egitto, che degli ebrei in Egitto diceva, Esodo capitolo 1 verso 10, noi lo ripetiamo tutti gli anni a Pasqua: qualora si verificasse una guerra, esso, cioè il popolo di Israele, si unirebbe ai nostri nemici, ci combatterebbe per poi andarsene e abbandonare il paese. Eccola, era cominciata già allora questa accusa di ambiguità e di doppia appartenenza. E allora, siamo d'accordo con questo modello di esseri, di gruppi omogenei che non si intrecciano uno con l'altro, che non hanno delle sovrapposizioni, che non si arricchiscono di queste doppie, qualche volta anche triplici appartenenze? Vogliamo questi gruppi nazionali e religiosi assolutamente impermeabili? E quindi al massimo ci concediamo uno spirito di tolleranza, o vogliamo invece che uno sia dialogante, che uno comunichi, che uno si arricchisca del dialogo, e allora e soltanto allora parliamo di pluralismo, secondo me. E non c'è un criterio per decidere quale delle due ci va più bene, è un problema di scelta. Io vorrei che noi facessimo tutti assieme la scelta del pluralismo. Non tutti lo fanno, non tutti sono maturi per farlo. E per capire meglio il pluralismo, cosa vuol dire il pluralismo, io sono andato, vi confesso, sono andato a cercare quello che potevo trovare nella letteratura rabbinica, nella letteratura anche comune, perché io volevo raccontarlo il pluralismo prima di definirlo in maniera arida e quasi scientifica. Volevo raccontarlo come si usava a fare nella narrazione chassidica, nel midrash rabbinico, nella parabola evangelica. Vedete quanto c'è di comune nel modo di dire le cose. No, questo è proprio un retaggio comune che risale ormai a tanto tempo fa. E io, quello che ho trovato di meglio è stata una breve nota di Martin Buber. Martin Buber, credo che tutti sanno chi è, chi era, un filosofo ebreo tedesco che insegnava a Heidelberg e anche a Gerusalemme, colui che ha riscoperto e fatto conoscere all'Europa occidentale il chassidismo, il movimento mistico di massa degli ebrei dell'Europa orientale. Martin Buber, in un suo libro, fra tante cose che interessano il problema del dialogo, racconta questo fatto della sua vita, che io voglio leggervelo saltando alcune cose superflue, con le sue stesse parole, perché credo che sarà bene rifletterci un momento. La mia amicizia, di Martin Buber, con un uomo ora morto, nacque durante un avvenimento che, se così si vuole, si può denominare un colloquio interrotto dalla morte. La data è Pasqua 1914. Alcuni uomini di diversi popoli europei si erano riuniti per tentare l'instaurazione di un'autorità supernazionale nell'indistinto presentimento della catastrofe bellica. Le conversazioni erano caratterizzate da una sincerità senza ritegno, la cui fertile sostanza non ho più sentito tanto fortemente in altre occasioni. Mentre parlavamo della composizione di un gruppo maggiore che avrebbe dovuto promuovere pubblicamente l'iniziativa, chiese la parola uno di noi ed espresse il timore che troppi ebrei fossero stati nominati, con la conseguenza che molte nazioni erano rappresentate da ebrei in proporzioni molto forti. Protestai. Non so come venni a parlare di Gesù e del fatto che noi ebrei lo conosciamo dal lato intimo, cioè dagli impulsi e dalle emozioni della sua natura di ebreo, a cui i popoli cristiani non troveranno mai accesso. Dopo commentiamo dopo. Egli si alzò, anch'io ero in piedi, ci guardammo nel cuore degli occhi. Tutto è scomparso, disse, e ci demmo un bacio fraterno al cospetto di tutti. La discussione sulla posizione tra cristiani ed ebrei si era trasformata in una unione fra l'ebreo e il cristiano. In questa metamorfosi si compie il dialogo. Le opinioni erano scomparse, si attuava una realtà. Ora, sono poche righe, ma sono poche righe talmente dense di stimoli a riflessione che io sono rimasto veramente colpito da queste poche righe. Prima di tutto sono poche righe nelle quali ci sono, scusate se voglio andare a fondo, ma il problema metodologico per me è fondamentale, nelle quali ci sono perlomeno tre momenti. Il primo momento è quello del conflitto. Del conflitto, noi e voi in due posizioni diverse, in una incomprensione direi antica, no? Il primo momento c'è la paura, troppi ebrei, tante volte, e di contro quella specie di risentimento, di orgoglio, di appropriazione, ma insomma Gesù è nostro. Primo momento e poi ci si guarda. Il secondo momento è invece, ma insomma, il cuore degli occhi. Il secondo momento è la sensazione che in realtà si ha a che fare con amici, con fratelli. Il secondo momento è la rottura improvvisa di questa contrapposizione con l'abbraccio pubblico. Ecco, quello che manca è il terzo momento. Il terzo momento non c'è per la crudeltà della morte, per motivi probabilmente, per quello che riguarda Martin Buber, semplicemente contingenti, e tuttavia io mi devo domandare se questo terzo momento è venuto a mancare fino a questo momento, o perlomeno insufficiente fino a questo momento, solo nel caso di Martin Buber, col suo amico, di cui non so il nome, oppure se è un dialogo non ancora compiuto. Ecco per quale motivo io ho l'impressione che sia opportuno che il discorso non riguardi soltanto il contenuto, ma che il discorso sia anche e soprattutto un discorso metodologico. Io abbandono per un momento i miei appunti per parlare più facilmente, liberamente, perché se no poi perdo il contatto con voi, mi dispiacerebbe. Arrivato fino a questo punto, io mi sono fatto un'ulteriore domanda. Me la sono fatta a me e la faccio anche a voi. È una domanda che noi ci siamo fatti ripetutamente anche alla Mendola e che alla Mendola ha avuto una risposta, non soltanto alla Mendola, una risposta più che negativa interlocutoria. Cosa vuol dire il passaggio, esattamente il passaggio dalla tolleranza al pluralismo dal nostro punto di vista? Fino a quale punto la strada può essere fatta assieme? E fino a quale e a partire da quale punto non può essere fatta assieme. Allora, io vi porto alcune esemplificazioni per poi trarre cercare perlomeno di trarre una conclusione. Alla Mendola è stato chiesto più di una volta di fare delle preghiere ebraiche. In verità è stato chiesto anche di fare delle preghiere islamiche, ma adesso io parlo soltanto di un aspetto del problema, non voglio appropriarmi di tutti. È stato chiesto di fare delle preghiere ebraiche pubblicamente e o assieme agli altri. Noi l'abbiamo quasi evitato e dopo vi dico perché. Un altro episodio è successo proprio come esperienza personale non molto tempo fa in una grossa parrocchia della provincia di Venezia, dove sono stato gentilmente invitato a mangiare a pranzo insieme con gli altri, con i sacerdoti della parrocchia, e alcuni sono amici della Mendola, ma veramente buoni amici, e mi è stato chiesto se volevo dire una breve preghiera prima del pasto. Ecco, io ho cortesemente rifiutato. Fra poco vi dirò perché. C'è stato qualche altro episodio in cui è stato detto recitiamo assieme dei salmi. Io ho espresso un'opinione non favorevole, proprio io che sono immerso, ecco, non vi immerso in questo dialogo, in questi rapporti di amicizia, nello sforzo di costruire e allargare questa amicizia. Cos'è? C'era un ripensamento? C'era qualche improvvisa resipiscenza? No. Niente di tutto questo. Io ritengo che l'ultimo passo sia veramente un passo pericoloso e sbagliato, se c'è un ultimo passo dalla tolleranza al pluralismo, se l'ultimo passo dovesse diventare un sincretismo, praticamente un sincretismo più formale che sostanziale. Sarebbe un ingannarci reciprocamente. Spero che voi mi capiate quando dico questo. Spero che mi capiate fino in fondo quando dico questo. Noi siamo qua per costruire insieme, non per ingannarci reciprocamente credendo di costruire insieme. Perché non è attuabile in questo momento una mescolanza di culti che metterebbero insieme dei modi di riferirsi al proprio culto molto lontani e molto diversi uno dall'altro, anche se le radici comuni sono forti, anche se il patrimonio comune è più forte di quello che si crede e anche se le possibilità di percorrere delle strade in comune è molto più forte di quella che potrebbe apparire in teoria. Perché cosa facciamo? Recitiamo insieme un salmo. Beh, ma vedete, per un ebreo recitare un salmo non è ancora, voglio farvelo capire più che possibile, non è ancora preghiera. È preghiera quando quel salmo viene recitato all'interno di un contesto, per esempio un gruppo di salmi, quel gruppo di salmi, ma allora viene recitato all'interno di un determinato contesto, perché quel gruppo di salmi che si chiama lo Hallel, i salmi che finiscono con Alleluia, quel gruppo di salmi viene cantato nel contesto di determinate festività, di determinate solennità che hanno un ben preciso significato nella liturgia e nella fede ebraica. Se noi pigliamo uno di questi salmi, lo isoliamo dal contesto e lo recitiamo fuori di questo contesto, diventa un puro e semplice brano letterario che può essere letto, commentato, studiato, tradotto grammaticalmente, ma non è più un atto di fede, un atto di culto. E allora ci diamo ad intendere. Allora recitando questo salmo isolato ci diamo ad intendere. E allora non facciamo più, gli amici non si danno ad intendere. I fratelli non devono darsi ad intendere uno con l'altro. Devono dirsi quello che sono, quello che pensano, quello che ritengono sul serio, perché altrimenti cade in un equivoco di fondo. Questa è una riflessione che può essere anche penosa, mi rendo conto, può essere anche dolorosa, ma è meglio essere molto chiari affrontiamo degli ostacoli, ma affrontiamoli, perché non dobbiamo affrontarli? Affrontiamoli volentieri. Volete qualche altro esempio? Non so, l'esempio della mentola. Benissimo, l'esempio della mentola. Quando arriva il venerdì sera alla mendola, non so se ci sono molti, qualcuno ci siamo trovati qua fra i frequentatori della mendola, ma non moltissimi, ce ne sono. Quando arriva il venerdì sera alla mendola, forse tutti ricordano che quei pochi ebrei che ci sono, e molte volte non sono neanche ebrei, si riuniscono prima di cena e fanno la benedizione sul vino. Ecco, lo facciamo molto volentieri davanti agli altri, perché non c'è assolutamente niente di misterioso o di esoterico. Lo facciamo molto volentieri, anche se evidentemente viene staccato un pezzo della nostra liturgia, l'unica che possiamo fare in quella sede, perché non siamo mai in 10, non possiamo fare molto più di quello, viene staccato, isolato, ma lo facciamo come lo faremmo nelle nostre case. E come nelle nostre case, facendolo magari marito e moglie un figlio, in un piccolissimo nucleo familiare, apriamo la porta se c'è qualcuno che vuole partecipare, essere compresente a questo nostro rito, ben venga, non è obbligatorio che sia soltanto un ebreo, può essere chiunque, lo accogliamo tanto volentieri. Ecco che anche alla mendola, per un momento, anche se pochi, con tanti fratelli e amici che ci circondano, diventiamo quasi padroni di casa, e in questo caso molto volentieri facciamo quello che faremmo a casa nostra in presenza degli altri. Però voi capite bene che questo, anche questo, non è il pregare in comune. Assieme sì, assieme un altro discorso, assieme sì, siamo assieme, non è il pregare in comune, è il nostro pregare con le porte aperte. Benvenga, io sono contento quando apriamo le porte, ma siamo sempre noi che facciamo la nostra preghiera. Dei tentativi di unire ci sono. Ci sono tentativi nelle comunità degli Stati Uniti, c'è il grosso tentativo del quale credo sento il dovere di riferire, il grosso tentativo, anche se piccolissimo di entità, del nucleo paraurbano, quasi agricolo, paraurbano di Neve Shalom in Israele, che è il nucleo nel quale vivono assieme, educando i figli assieme, alcune famiglie, un gruppo di famiglie di ebrei, di cristiani e di musulmani assieme. È una grossa esperienza, anche se si tratta di un piccolissimo nucleo, sono poche decine di persone in tutto, ma non ha importanza, in questi casi non è il numero quello che conta, che fino a questo momento si svolge nelle forme più fraterne, più costruttive che possiamo immaginarci, creando una grossa intimità fra queste famiglie, tanto che noi li abbiamo incontrati, e per questo spero che faccia in tempo a arrivare Fuad, perché li abbiamo incontrati assieme, un piccolo gruppo di questi, a Messina l'altro anno, erano una rappresentante di una famiglia ebraica e un rappresentante di una famiglia musulmana, che vi assicuro allargava il cuore, perché si vedevano, sembravano, non dico marito e moglie, ma fratello e sorella. Ecco, erano proprio veramente, allargava il cuore a vedere questa manifestazione di... che cosa vuol dire però? In che cosa consiste e cosa rappresenta questo dialogo di Neve Shalom? Che vuol dire alloggio di pace, sede di pace, residenza di pace. Questa è la traduzione giusta, residenza di pace. Che cosa vuol dire a che cosa ha portato, concretamente che cos'è. È un modo di vivere, ma credo che possiamo aspirare a molto di più. Qual è il problema dove io trovo serie difficoltà e che poi cercherò di suggerire qualcosa per uscire? Il problema delle serie difficoltà è dove finisce il confine del dialogo costruttivo assieme per costruire qualcosa assieme, per confrontarsi assieme, quindi pluralismo come compenetrazione, pluralismo come regalo e donazione reciproca. Non come uno sta a quella finestra e uno a quell'altra, e dove comincia quel sincretismo che inevitabilmente significa o ambiguità reciproca oppure annichilimento di una parte o di ciascuno di noi o di tutti e due. Male in tutti e due i casi. Allora, che cos'è? Dove si può arrivare? Ecco, io mi sento terribilmente piccolo da questo punto di vista, però, e non vorrei sbagliare, mi correggerete voi se sbaglio, però credo che uno dei problemi, uno degli aspetti che possiamo e dobbiamo affrontare assieme, soprattutto nel mondo di oggi, è il problema del pensiero, delle fondamenta del pensiero religioso, quindi della teologia, della filosofia della religione, soprattutto per quello che riguarda le tre religioni monoteistiche, perché se c'è qualche cosa che collega sicuramente un minimo comune denominatore queste tre religioni, non mi permetto di parlare di quelle che parleranno domani perché non le conosco, non posso parlare delle cose che non conosco. È proprio la comune matrice e il comune elemento fondamentale portante, che è quello del monoteismo e della negazione del paganesimo. Pare che su questo non ci sia ombra di dubbio. Ora, nel Medioevo, quando apparentemente il rapporto fra queste tre religioni monoteistiche era di barriere, crociate, guerre, invasione araba d'Europa, i turchi, più medioevo, i turchi sotto Vienna, insomma, quando c'erano proprio gli eserciti, il dialogo era un dialogo di eserciti. Eppure proprio nel Medioevo, e questo lo sapete meglio di me, su questi temi, su questi problemi, lo scambio e il confronto era ricchissimo, era incredibilmente ricco. Vediamo alcuni punti di riferimento che secondo me sono di un'importanza enorme. Mesopotamia, Baghdad dell'epoca dei califfi abbasidi, Baghdad all'epoca di quel primo pensatore, primo filosofo di religione ebraico che si chiama Saadia Gaon, che fra l'altro scriveva in arabo, incidentalmente. A Baghdad esistevano quelle, ma non in forma coatta, esistevano quei istituti eccezionali, ma dico siamo a mille anni fa, e dobbiamo ancora adesso parlarne per cercare di recuperarlo, che erano i confronti e i dibattiti pubblici fra gli esponenti delle tre religioni, ma non erano dibattiti coatti, cioè voglio dire, per quello che ne sappiamo noi, non c'era nessuna prevenzione, nel senso che il dibattito dovesse a tutti i costi concludersi col trionfo della religione islamica. Probabilmente non si concludeva, probabilmente rimaneva aperto, rimaneva, come dicono i talmudisti, ecco, vi dico anche qualcosa di Talmud, dicevano teku, rimane in piedi, rimane aperto. Termine aramaico del Talmud, teku, rimane in piedi, il problema non è ancora risolto. ma non è, il problema invece è risolto. È risolto nel momento in cui si sta insieme a affrontare il problema. Qual era il problema di filosofia della religione che veniva dibattuto allora, ai tempi di Sadia Agaon? Era soprattutto il problema del libero arbitrio o del determinismo. Quello era il problema che era molto sentito sia dal pensiero islamico di quell'epoca e veniva trasmesso e studiato e affrontato dai primi pensatori religiosi ebrei, per l'amor del cielo. Adesso non mi metto a discutere del determinismo o del libero arbitrio, ma questo è un problema che affronta qualunque credente. Questo è un problema che non è specifico o proprietà privata dell'uno o dell'altro. Esso è dall'epoca di Sadia Gaon e del Kalam islamico e prima ancora naturalmente, da allora in maniera abbastanza clamorosa, che si dibatte su questo assieme, che se ne fa oggetto di riflessione comune, con delle conseguenze che non sono semplicemente conseguenze dottrinarie da affidare a un trattato teologico-politico o a un trattato teologico-morale, con conseguenze che incidono sul modo di essere, sul modo di vivere la propria fede, sul modo di vivere il rapporto fra la propria fede e quella degli altri. Io credo che sia una cosa un problema veramente tecu, che non è finito, che io credo che potremmo porre a parecchi dei presenti, no, non presenti in questa sala, anche in questa sala, dei presenti, dei nostri coetanei, dei nostri coevi, delle persone che vivono nel nostro mondo. Un problema che è continuato nelle generazioni successive, un problema che si trova nelle pagine della guida degli smariti di Maimonide, che però non è la guida degli smariti di Maimonide, perché è il pensiero ebraico, è il pensiero islamico, è il pensiero cristiano del Medioevo, il grosso problema del credente, che c'è anche nella Bibbia, esposto in maniera drammatica qualche volta, ma c'è il problema della provvidenza, della presenza della provvidenza nella vita del singolo, nella vita dell'uomo. Quest'anno mi avete dato un altro compito terribile, da far tremare le vene, i polsi alla mendola, ma l'ho accettato molto volentieri, è quello di fare una meditazione su Giobbe. Questo è un problema antico, è un problema profondo, che eccolo, c'è in Giobbe, i vari perché di Giobbe, c'è in Giobbe, e ne parleremo, cercheremo di fare, di portare fin là la nostra riflessione. E questa è una linea di dialogo e di pensiero, vorrei avviarmi alla conclusione, che credo sia aperta di fronte a noi con la possibilità di una grande messa, insomma. Io credo che noi dobbiamo riprendere questa possibilità di incontro e di dialogo che nei momenti più... Ecco, vedete... C'è un po' un modo di presentare le cose che dovremmo anche correggere. Si continua a dire il cupo medioevo, l'oscuro medioevo. Sì, per molti aspetti era oscuro, ma perché? Perché l'epoca che va nel corso della Seconda Guerra Mondiale è brillante, allegra, luminosa, un'umanità eccezionale. Non so quale dei due periodi sia più cupo, se ci mettiamo a fare un confronto. Quindi tutti i periodi hanno il loro cupo e il loro non cupo. Però, accetto, parliamo pure del cupo medioevo. Ma dico, se nel cupo medioevo abbiamo la possibilità di un dialogo di questo tipo fra il pensiero religioso delle tre religioni e un confronto costruttivo, una conoscenza reciproca di questo genere, oggi no. Oggi non è possibile. L'obiezione può essere una sola, che può essere, ecco, questa può essere l'obiezione più grossa, dalla quale io confesso che non mi so difendere. è troppo difficile. È una tematica troppo difficile. Qua parliamo di filosofia della religione. Qua chiediamo a chi partecipa di fare un grosso sforzo di cultura, di studio, di approfondimento. Sono problemi molto teorici, molto astratti, che forse difficilmente riusciamo a tradurre subito in un linguaggio comune, corrente, di tutti i giorni. Non so difendermi da questa. È vero? Perché dovrei difendermi? È vero? Io dico soltanto che secondo me non si fa dialogo costruttivo sul serio se non si fa uno sforzo, perché bisogna non rinunciare a se stessi, mai rinunciare a se stessi, altrimenti non si dialoga, ma bisogna accogliere in sé qualcosa dell'altro, e questo è uno sforzo, e noi ci chiamiamo a uno sforzo, credo che non ci sia altra possibilità, e lo sforzo può andare in questa direzione. Due piccole cose prima di farvi riposare da questa mia tirata troppo lunga. Io ho trovato un libro che volevo raccomandarvi, perché io sono sempre poi alla fine, vengo subito a miti consigli. Un libro nel quale gran parte, ci sono molte altre cose, ma gran parte di questo discorso che vi ho fatto è sviluppato con spunti, il libro non è nuovo. È un libro scritto originariamente in inglese, è stato tradotto in italiano nel 60, la prima edizione italiana è del 60, quindi non è molto vecchio, neanche nuovissimo, e si chiama L'eredità di Israele, della casa editrice Vallardi di Milano, che contiene non solo questa tematica alla quale ho cercato di stancarvi oggi, ma anche altre, però si possono trovare parecchi elementi della filosofia religiosa ebraica, dell'influenza reciproca fra i pensatori religiosi ebrei e quelli cristiani, anche quelli musulmani, quindi c'è parecchio da anche spunti bibliografici, eccetera. E questo io proprio lo raccomanderei molto caldamente. E poi, per mettere una sigla finale a questa conversazione anche troppo lunga, io vorrei soltanto raccontarvi un interessantissimo, una tradizione che abbiamo in famiglia, una tradizione orale, ormai si parla tanto anche di fonti orali nella storia, quindi ve la comunico così com'è. A Padova, nell'Ottocento, quando in Italia è stato fondato il primo collegio rabbinico d'Europa, che era il primo d'Europa, è stato ricordato anche in Germania a Heidelberg in un convegno in ottobre, che questo è proprio un punto fermo, proprio a Padova è stato fondato il primo collegio rabbinico. Uno degli insegnanti del primo collegio rabbinico è stato mio Trisavolo, il nonno di mio nonno, Samuele David Luzzatto, che era molto conosciuto in tutta l'Europa centrale per i suoi contributi in vari campi dell'ebraistica, traduzioni bibliche, commenti, molto grammatica, riscoperta di testi e varie altre cose, inutile che qua andiamo fuori tema. Era in stretto dialogo con numerosi pensatori e pubblicisti ebrei, tedeschi, cristiani, italiani, francesi, eccetera, e inevitabilmente, come succede in questi casi, come succede anche a me per esempio molte volte, si viene avvicinati, non necessariamente da ebrei, io ogni tanto, per così dire, do udienza a qualcuno e converso, ma di solito gli faccio parlare gli altri, perché non posso mica dare il verbo, chi sono io, ma li faccio parlare, serve sempre, ci si conosce. E uno di questi corrispondenti cristiani di Samuele David Luzzatto insisteva molto perché lui gli risolvesse alcuni dilemmi, alcuni problemi intimi, alcuni problemi di fede, alcuni problemi di convincimento. fino a che quando è stato richiesto di sintetizzare, di dirgli un'ultima parola, in poche parole che cosa gli consigliava, Samuele David Luzzatto gli ha detto sinteticamente: vi consiglio di essere un buon cristiano. E con questo vi ringrazio. Dottor Luzzatto credeva di essere troppo lungo, credeva di annoiare, di essere pesante, invece a me ha dato l'impressione che è stata una relazione introduttiva molto significativa e molto anche facile nella sua profondità. Io mi sono notato queste considerazioni, condivido soprattutto l'insistenza metodologica, che del resto è la nostra passione. Però, mentre lui parlava, io riflettevo al forte clericalismo che c'è ancora nelle varie chiese, nelle varie confessioni alle volte. La sua insistenza metodologica aveva anche il sapore di una prospettiva molto umana, molto culturale. Un laico, nell'ebraismo non si distingue laico, rabbino, però io sentivo che spesso direi la difficoltà di incontro tra le religioni è perché le religioni sono gestite da coloro che si identificano con la parte istituzionale di esse, che si sentono come responsabili della loro formalità, ma dovremmo veramente far parlare coloro che noi, nella linea cattolica o anche non cattolica, cristiana in generale, chiamiamo laici. Coloro che rappresentano l'umano che vive la fede, non che gestisce le forme e le strutture. Ecco una prima mia considerazione che condivido moltissimo, penso che sia stata utile per noi, anche se il suo discorso è andato quasi alla fine, cioè ha portato già i frutti, io vedevo che quasi lui maneggiava l'esito finale verso cui noi tendiamo. La seconda importante considerazione che io vorrei collocare in un contesto ancora più ampio è quella che l'incontro tra religioni non può diventare un sincretismo, soprattutto se viene gestito artificialmente, quasi fine a se stesso. E questo è un discorso oggi molto diffuso, non soltanto suo, o di quei gruppi che partecipano alla Mendola, ma anche in rapporto a quella nuova esperienza che vorremmo in Italia mandare avanti. Si sta ancora discutendo, comunque quest'anno Tuaf l'ha fatto accettare, è stato accettato dalla CEI, quel famoso giorno, 17 gennaio, in cui noi siamo chiamati a, fuori della settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, a realizzare una fraternità con il mondo ebraico. Bene, lì anche come norma è stata data a tutta l'Italia, non so se le chiese ne abbiano tenuto conto, è stato precisato che non si tratta di una giornata di preghiere, quindi non è soltanto lui che in un'occasione si rifiuta, è proprio la struttura di questa giornata che vuole che si impedisca il sincretismo a livello radicale, che è quello della preghiera. E sono reduce, proprio abbiamo finito a mezzogiorno, reduce da un convegno di liturgisti di tutta Italia, organizzato dall'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina, dove è stato veramente sottolineato questo fatto, che tutto si tiene in un contesto vitale. Penso che noi cattolici dovremmo tenerne molto conto, perché cattolico è il nostro carisma, ce lo assicurano anche altri, è quello di assumere molto da tante parti, ma potremmo realizzare questo assumere violentando. Un elemento, era il discorso del convegno di Santa Giustina, ogni elemento vive dentro un suo contesto, non è estrapolabile immediatamente, diventa cultura, diventa un elemento culturale non più religioso. E allora ecco l'importanza anche per noi cattolici e anche per me che ho una passione forte per l'ecumenismo, di non avere la fretta di operare la sintesi, perché altrimenti si rischia veramente di tendere verso un sincretismo dove le differenze perdono il loro carisma, la loro valenza. E su questa linea si trovano d'accordo Kuhlmann, Ratzinger e altri. Non aver fretta, e soprattutto loro insistono sulla terza cosa, terza o quarta, ecco l'importanza di trovare i problemi sui quali unirsi, ecco la tua obiezione, i problemi, cioè devono essere sempre di più problemi come ci insegna Medioevo, umani, forse non quelli difficili, filosofici, ma quelli che sono i problemi dell'umanità di oggi. E allora io ritorno all'esperienza che non ho fatto ma che seguo di Seul, dopo Basilea, che documenta come, interessandosi dei problemi della giustizia, della pace, dell'ecologia, cioè di problemi che siano di tutti, ci si unisse. Non possono diventare immediatamente problemi comuni i problemi religiosi delle singole religioni. Ecco alcune suggestioni che mi sono venute ascoltando questa interessantissima, perché è stata una relazione anche partecipata e partecipante a livello psicologico e sociologico storico. Volevo sapere se Fuad... il dibattito ancora profitiamo, ma Fuad è arrivato o no? Se no dobbiamo dire salam, salam, no? Salam. Menestrina, bisognerebbe invitarlo. Allora noi approfittiamo della presenza sua per fargli delle domande, per sollecitare la sua disponibilità a darci anche ulteriori informazioni, qualche altra cosa. Ecco, volevo subito dire un'impressione. Mi ha fatto grande impressione l'atteggiamento molto più severo, molto più serio che loro hanno a proposito del culto. Non è una cosa da prendere alla leggera quella di compiere una azione cultuale insieme. Ho l'impressione che cattolici questa stessa difficoltà non la sentirebbero nella stessa maniera, e non è un caso se sono loro che un po' alla leggera propongono, vero, di fondere insieme anche i momenti di preghiera e così via, no? E soprattutto anche portati dall'entusiasmo che aprono gli occhi quanto patrimonio biblico dell'Antico Testamento c'è nei nostri testi di preghiera di oggi. Ma forse proprio a noi manca, e sarebbe una cosa che in questo scambio possiamo invece riapprendere, vero, la sensazione del fatto che qui non si tratta soltanto di letteratura o di pii sentimenti. Noi la stessa nostra liturgia in troppo larga misura la sentiamo o la comunichiamo come così un complesso di pensieri o di dottrine o di immagini, no? Molto a livello letterario. Qui invece c'è dentro una sensazione fortissima di quello che è il culto e di quello che di come era sentito anche dai cristiani e di come in sostanza va percepita l'azione liturgica come tale, che è una sede molto seria dove pur usando lo stesso testo, ma non è la stessa cosa se lo si usa in una determinata circostanza per esprimere una situazione in un dato momento, oppure così tanto per una preghiera generica. Questo per l'interesse che ho con la liturgia, ma ecco, approfittavo quasi per assimilarlo, perché qui noi abbiamo perduto qualche cosa, a mio avviso, che avevamo ricevuto dall'antico ceppo di Israele e che dobbiamo assolutamente recuperare. E ci manca un po', noi prendiamo troppo alla leggera il fatto cultuale, oppure lo prendiamo molto, molto rigidamente, poi in quanto normato, in quanto legalmente strutturato così. Abbiamo sentito che si tratta di momenti di preghiera anche di tipo quasi dico familiare, però c'è un senso molto molto preciso che è entrato nel costume, è diventato sesto senso del modo di sentirsi e di esprimersi delle comunità anche capillari. L'altra considerazione è proprio con gli esempi portati a proposito dei temi discussi insieme nel Medioevo. Senza dubbio ci dà un esempio e io vorrei veramente chiedere se in questa direzione si può, come Monsignor Sartori ha già accennato anche qualche esempio, si può portare avanti qualche proposta maggiore di campi di interesse dove quel tipo di discorso, perché penso ben che la teologia occidentale, avendo sviluppato poi in moduli suoi propri problemi come quello della predestinazione e della grazia, è andata infilandosi in vicoli ciechi che non sono quel famoso restare in piedi della questione, sono stati veri insabbiamenti della questione. A un certo punto la problematica della grazia nel secolo XVI, insomma, molinisti e così via, insomma, no? Si è arenata lì la questione semplicemente nella discussione tecnica della teologia cattolica, e forse se avesse tenuto di più il dialogo con le altre religioni che degli stessi temi si interessano molto forte, forse non si sarebbe arenata così al punto tale da averla messa da parte, proprio perché mi pare che la teologia odierna la sente poco un problema che adesso, insomma, non è inutile neanche tornarci sopra. Forse tradotto accanto alle proposte rispettabili della pace, eccetera, della giustizia, che però potrebbero essere da molti sentiti anche come temi, direi, prevalentemente profani. Io mi domando se temi che toccano il nervo anche veramente delle scienze naturali e della problematica filosofica che ci sta dietro e della stessa situazione culturale in cui noi viviamo. Non so, per esempio, il problema della azione di Dio rispetto al mondo e del modo di conoscerla e di assecondarla o di chiuderla. I problemi stessi della creazione della realtà materiale, non so se potrebbero, domando io, se potrebbero essere problemi che entrano in questo repertorio di tematica interessante a questo riguardo. È già aperto dunque la lista di coloro che possono fare ulteriori domande. Monsignor Roger, se qualcuno vuole intervenire. Sì, non. Fabio? Nebesciano. Sì. Esperienza. Sì. Sì, se qualcuno, ma avete capito quello che ha detto? No? No? Ha chiesto un ulteriore approfondimento dell'esperienza di Neve Shalom. Tu, padre Goffi? Qui c'è il microfono a disposizione di tutti gli intervenienti, se credete, no? Padre Monsignor Goffi. Non è tanto un'affermazione per contrariare la sua tesi, ma se potesse spiegare questa difficoltà. Qua quando parliamo tra i ecumenisti ci preoccupiamo di dire che bisogna andare al di là della delle singole chiese per incontrarsi nel Signore, in Gesù. Dato che se partiamo dalle singole posizioni giungiamo o all'opposizione o al sincretismo che lei chiaramente ha illustrato. Ora, parlando tra le religioni, quando si fa il problema interreligioso ci si chiede se non vale lo stesso metodo andare di là del proprio culto, della propria liturgia, della propria religione, in altre parole, per vedere se c'è un incontro in Dio, se questo incontro con Dio può permettere qualcosa di unitario. Perché se io prego col senso cristiano, è naturale che non posso fare un'unione con la l'ebreo oppure con qualsiasi altro di altra religione. Cioè, se questo tentativo è possibile, è possibile nel senso che non si esprime né sincretismo né opposizione, ma può essere quello che si suol dire un colloquio interreligioso. Vuoi su? Sì, dopo. Fai girare e lo tiri su. Ma. Ciascuna religione naturalmente ha la sua individualità e noi partiamo da quella. Ed è bene che ciascuna religione si riconosca per quello che è. Però io penso che quello che dice Luzzatto sia in qualche modo oggi sia rivedibile, perché rivedibile, cioè l'identità deve andare verso un'altra identità, in un mondo in cui noi vediamo che tutto si muove, c'è questa intercorrelazione tra popoli, c'è questa ibridazione di popoli, c'è questo fondersi di culture. Io penso che le religioni, se soltanto a un punto, se riescono a trovare, come io sostengo dal punto di vista della scienza e delle religioni, un'anima comune, quasi una specie di background comune, non fanno opera di sincretismo. Ciascuna manterrà la sua identità e nello stesso tempo sarà capace anche di dialogare in un senso vero, profondo. Altrimenti il dialogo, altrimenti mettersi vicino all'altro significa soltanto guardarlo in faccia e niente di più. Abbiamo bisogno di parlarci, abbiamo bisogno di comunicarci anche concetti diversi e dialogare nel senso più profondo della parola. Ora, io questo non lo ritengo un sincretismo, ma ritengo che ormai sia giunto il momento in cui qui si dà il vero dialogo, quando noi riusciremo veramente a spogliarci, per così dire, non della nostra fede, ma delle nostre sovrastrutture culturali, delle nostre concettualizzazioni storiche. Perché io penso che anche addirittura la nostra logica di pensare Dio a volte è soltanto un fattore culturale, concettuale. E abbiamo bisogno, per così dire, di diventare più umili, più bambini, più bambini. Diventando più bambini, forse, e con meno apparati culturali, teologici, riusciremmo a dialogare di più e meglio. Ora, io ho presente naturalmente tutta la fenomenologia della religione, che già dagli anni 20 andava cercando di costruire un sottofondo su cui costruire un concetto di religione. E naturalmente era combattuta sia dalla teologia dialettica, che diceva la religione è soltanto il cristianesimo, e naturalmente era combattuta anche da tutti gli altri, quali dicono no, non è possibile questo. Ecco, io penso che conservare la propria identità va bene, ma oggi è importante anche rinunciare a qualcosa di se stessi, per andare incontro. e non si fa dialogo finché non si incontra veramente, si resta soltanto in silenzio reciproco, uno di fronte all'altro. Questo nel giorno d'oggi soprattutto, anche perché i problemi culturali diventano sempre più stringenti, non è più possibile. Bozzon? Io volevo porre qualche domanda che il professor Luzzatto mi ha fatto prepotentemente rimbalzare, soprattutto dopo l'esperienza di Seul. Ricordo che Monsignor Sartori, in un incontro ecumenico a Mestre, parlando di Seul prima di Seul, aveva quasi fatto una cronaca di morte annunciata. E in effetti poi ho riscontrato che a Seul esattamente, adesso non voglio dare la patente di profeta a Monsignor Sartori, ma esattamente si è riflettuto veramente quella serie di difficoltà che io ho risentito ancora questa sera. Cioè, diceva Monsignor Sartori in quell'incontro, dobbiamo arrivare alla parzialità, cioè nessuna religione è totalità, almeno esistenzialmente, se non ho capito bene quello che diceva allora Monsignor Sartori. La difficoltà del dialogo a Seul tra cristiani, non tra religioni, all'interno dei cristiani è stata ancora una volta che ognuno possedeva la totalità della verità. E io non so come si può andare fuori da questo, da questa grossissima difficoltà, che non è tanto di carattere soltanto teoretico, ma poi anche pragmatico. Per esempio padre Cost della delegazione vaticana continuava a ripetere, ed era una cosa vera, no? Che Seul non era credibile perché invece che un incontro di chiese era un incontro sulla politica. Questa era la tesi dominante. Gli ortodossi naturalmente dicevano Seul non è credibile perché non ha assimilato la nostra teologia. Questi qui hanno una teologia contestuale di terzo mondo, sono incapaci di fare teologia, sono dilettanti, perciò è inutile qui stare ad ascoltarli. E il documento ortodosso dice chiaramente: o integrano le nostre posizioni oppure togliamo la parte teologica perché non c'è teologia. Gli estensori, i redattori del documento di Seul continuavano a dire: ma questo è il parlare di Dio all'uomo, all'umanità di oggi, è trovarci in ascolto comunitario. In realtà poi non ci si è ascoltati. Mi domando se l'ebraismo, per esempio, ha un suo concetto di parzialità, come se il cristianesimo ha un suo concetto di parzialità. Grazie. Questo è il nostro Achille Rossi, domani lo sentiremo, a meno che non siamo costretti a... Volevo porre soltanto una domanda molto semplice, però chiedendo se è possibile, tutte le volte che si fa il dialogo interreligioso viene proiettata davanti quest'ombra, questo spettro del sincretismo, no? Se è possibile invece guardare a questo fenomeno con un'altra categoria, che è la categoria della crescita, cioè tutte le volte che avvengono degli incontri le religioni crescono e sono sempre cresciute storicamente, quindi invece che parlare di sincretismo, che è un fenomeno negativo e che rivela anche un'ottica molto culturale nel leggerla, si potrebbe guardare da un'altra angolatura e dire che tutte le religioni sono sottoposte a un fenomeno di crescita, e naturalmente la crescita avviene assimilando gli eventi esterni, cioè non si cresce solo dal proprio interno, si cresce in relazione. E quindi ecco, forse verrebbe un pochino attutito l'impatto negativo di questa categoria del sincretismo, parlando invece di crescita, che credo è un fenomeno che storicamente si è sempre verificato. Sì, è bene ascoltare tante voci, dopo se riesce bene, se no. Io sento per la seconda volta il professor Luzzatto e mi permetterà quindi di ricordare anche un po' la prima, dove mi aveva fatto cogliere in maniera viva questa che mi sembrava una sua convinzione, della parzialità dell'ebraismo, cioè l'ebraismo, mi pare, non ha nessuna pretesa di essere totalizzante, ha però una, diciamo, mi sembrava, una certa, un certo senso della propria sufficienza, nel senso che, ecco, mi ricordo una frase che quando uno si vuole fare ebreo dice: ma chi te lo fa fare? L'abbiamo detto esattamente così, cioè dice: benissimo, noi abbiamo questa nostra esperienza, non la vogliamo precludere a nessuno, ma non vogliamo neppure lanciarla, meno che mai inglobare dentro di essa. Ecco, questo mi sembrava che fosse una accentuazione del discorso di Urbino, vero professore? Ebbene, io già allora avevo sollevato qualche difficoltà che oggi in qualche modo ripeto, ed è questa: io ho l'impressione che il cristianesimo non possa così coincidere in questa interpretazione, non già nel senso che possa pretendere, come tante volte ha preteso, la pienezza o l'autosufficienza, eccetera, eccetera, anzi deve riconoscere la sua continua inadempienza, la sua escatologicità, eccetera, eccetera, vero? Quindi perfettamente d'accordo, però non può non avere come sua ansia, come sua speranza, come suo progetto, e progetto prima che di una sua realizzazione, di un dono, quella della universalità, della salvezza e della grazia. Ecco, questo mi pare che sia un punto centrale del cristianesimo. E da questo punto di vista mi pare che la prassi di Gesù sia quanto mai indicativa. Direi, da questo punto di vista, sia un po' da vedersi in atteggiamento critico nei confronti di una certa idea del culto. Ecco, Gesù che va a cena, che va a pranzo con tutti quei peccatori, quei pubblicani, no? che professa il superamento delle divisioni, dei luoghi di culto, la fine del tempio, eccetera, eccetera. Sono elementi che credo dovrebbero essere integrati in una maniera molto precisa nella prospettiva cristiana, e proprio per questo dovrebbero renderla così, l'atteggiamento cristiano, molto più disponibile, non soltanto per la tolleranza, ma per la comprensione, per il dialogo. D'altra parte, rispetto a quello che ha detto Terrin, cioè della ricerca di un background, io non mi sento così entusiasta, non che lo rifiuti tutt'altro, se c'è, se lo si trova va benissimo, ma mi pare che la unità più che alle spalle noi dobbiamo cercare in avanti, cioè al futuro, una unità escatologica. Allora il vero problema sia quello della creazione di basi sempre più ampie, di consenso, di comunione. Quindi unità non come realtà che sta alle spalle, ma come progetto. Ovviamente la unificazione ha varie formule, varie forme e vari gradi, e una è quella, per esempio, di una integrazione non organica. Il sincretismo è proprio questo, no? Ma intanto c'è già la possibilità di vederne il confronto, che magari assume anche un po' la forma del sincretismo, proprio questo momento di crescita del singolo e di maggiore disponibilità. Ma soprattutto, ecco che cosa potrebbe essere efficace, proprio la identificazione dei problemi comuni. Ecco, questo è il punto. Se noi identifichiamo i problemi comuni e non ci misuriamo anzitutto sul background a partire dal quale noi li affrontiamo, ma ciascuno partendo dalla propria individualità, data come un fatto del quale non ci si può spogliare, perché io sono io, non è che posso un certo giorno neppure con i cambi anagrafici diventare un altro, no? Ma proprio a partire da qui, ecco, confrontandomi col problema col quale l'altro si confronta, che è il problema che c'è comune, e misurando la capacità di interpretazione, la offerta di soluzioni con le esigenze del problema, io credo che proprio sia questa la linea dove l'ecumenismo più ampio e più concreto possa venire, e nelle maniere proprio meno violente e meno sincretistiche, perché immediatamente misurate sull'efficacia della realtà. Grazie. Buon accorso. E dopo così ascoltiamo prima reazione. Di fronte al problema del pluralismo religioso, dell'ecumenismo, io mi pongo sempre un interrogativo. Uno è proprio quello sollevato prima da Terrin, poi ce n'è un altro che è stato accennato anche da Sartori: in che misura la domanda ecumenica e pluralistica dipende dallo statuto di questa o quella religione? E in che misura dipende dallo statuto dell'uomo moderno? Per cui la possibilità di tentare un incontro tra le varie religioni dipende in parte dalle religioni stesse, dipende in parte dal fatto che questa domanda è stata quasi imposta, tra virgolette, alle religioni da quella coscienza pluralistica che è tipica dell'uomo moderno. Per cui questa domanda di pluralismo che viene dalla cultura potrebbe poi ripiegarsi sull'interrogativo della domanda specificamente religiosa dell'uomo moderno, e quel discorso che faceva allora Terrin di tentare il background fondamentale, trovarlo non tanto come sincretismo delle varie religioni, ma come punto d'incontro su quella che è la sensibilità del moderno riguardo all'esperienza religiosa. Proprio perché in fondo, probabilmente, buona parte della domanda ecumenica e pluralistica dipende a sua volta dall'uomo moderno. Grazie. Bene, ti sento. Don, da Perugia. Due osservazioni. La prima è che mi pare che i temi suggeriti da professor Luzzatto in confronto con il Medioevo dovrebbero tener conto di questa mancanza di sete di verità che c'è nel mondo moderno, mi pare. Cioè nel Medioevo c'era appunto la passione della verità, per cui effettivamente l'identificazione dei temi di dialogo dovrebbero più essere di tipo antropologico che non di tipo teologico. Ma la seconda cosa che volevo dire era la difficoltà che non è dell'Islam, non c'è stata la relazione di Fuad, però quando in una religione noi troviamo nello statuto di fede già l'inclusione della spiegazione dell'ebraismo e del cristianesimo, mi pare che la cosa diventi abbastanza difficile, e quindi deve essere appunto studiato un modo affinché il dialogo possa essere veramente nel rispetto delle singole identità, altrimenti più che il pericolo del sincretismo c'è questa difficoltà. La terza osservazione che volevo fare, ecco, le religioni non dialogano tra di loro, ma sono gli uomini, e soprattutto gli uomini nel contesto attuale, soprattutto parlo dell'immigrazione, degli immigrati, e quindi in quel momento il dialogo diventa un dialogo diciamo di fraternità, di testimonianza, di solidarietà, che forse è effettivamente ciò che apre a una possibilità di maggiore e più profonda comprensione tra gli uomini. Bene, volevo solo segnalare, già che il discorso è uscito dal tema del pluralismo in se stesso, ma già anticipando l'escaton di domani pomeriggio è entrato nel tema ecumenico per eccellenza, che l'attuale posizione di tutte le chiese ormai è questa: l'unità intesa come diversità riconciliata. Non è un'unità assorbente, includente, inclusiva, che annulla, è fondata sul mantenimento di un'autentica diversità che diventi stimolo a una concezione di unità, quindi non livellante ma arricchente. Ecco. Allora io darei un po' la parola in questo momento, la ridarei la parola al dottor Luzzatto, che tenti così di allietarci di nuovo. Tenti in parte di deludere le attese, perché non a tutto posso rispondere, perché altrimenti sarei inclusivista io. Ecco, io naturalmente, non per motivi di insufficiente conoscenza e di rispetto, ovviamente per quello che riguarda l'inclusivismo riferito all'Islam, io proprio non mi sento di rispondere. Ovviamente io spero che faccia in tempo a arrivare Fuad. Se mai arriverà domani, non ha telefonato, non sappiamo. Comunque, sentite, lasciamo per il momento quello, perché sì, veramente sarebbe oltretutto scorretto da parte mia entrare in argomento. Io, se permettete, vi rispondo un po' disordinatamente rispetto all'ordine delle domande, cercando di recuperare un minimo di ordine logico, invece, forse è meglio. Perché, e allora comincio quasi dalla fine, soprattutto da Boff, che ogni volta che interviene mi mette con le spalle al muro molto bene, perché mi fa osservazioni che mi farei da solo se dovessi farmele, e quindi mi riconosco nelle sue osservazioni, mi fa molto piacere. Ciò non toglie che, come molte volte non sono in grado di rispondere alle mie obiezioni, così non sono in grado di rispondere alle sue, ma questo succede. Però quello che non solo mi ha colpito nelle sue affermazioni di guardare avanti, ma mi trova molto consenziente, è il discorso dei problemi concreti sui quali possiamo, le necessità dell'uomo sulle quali ci possiamo trovare. E il discorso degli immigrati di cui parlava si collega con questo. Allora io vorrei un momento solo portarvi un'ulteriore riflessione che prima non ho fatto per non essere enciclopedico. Sugli immigrati, secondo me, esiste non solo un proprio là esiste non solo un problema di tolleranza, oddio c'è già e come se c'è un problema di tolleranza, ma questo è un'esperienza che purtroppo, ecco qua vi portiamo l'esperienza diretta di ebrei, che purtroppo prima che si estenda la tolleranza al diverso devono passare alcune generazioni. È una grossa, è un grosso discorso questo della tolleranza, non ancora sufficiente. Perché? Cosa succede? E qua vi parla l'esperienza secolare ebraica. Cosa succede? E cosa dobbiamo offrire agli immigrati? Succede che il singolo estraneo che si trova in mezzo a gente completamente diversa, come costumi, come modo di vivere, come modo di parlare, come colore della pelle, non lo sottovalutiamo, può percorrere due strade diverse. O quello della rabbiosa chiusura ostinata in se stesso per difendere quel tanto che gli può restare di proprio, oppure quello di cercare di mimetizzarsi all'interno del gruppo di maggioranza, certo non come colore della pelle, quello non è possibile, ma mimetizzarsi come cultura, come atteggiamento di fede anche. Io vi porto un esempio solo, uno dei più tristi esempi della storia ebraica, proprio a proposito di fede. Dopo il 1492, questo molti lo sanno, forse non tutti, dopo il 1492, che non è soltanto l'anno della scoperta dell'America, è anche l'anno per noi più doloroso della cacciata degli ebrei dalla Spagna, moltissimi ebrei spagnoli hanno finito col abbracciare apparentemente il cristianesimo, i cosiddetti marrani, i quali nel nascosto delle loro case, delle loro stanze, continuavano a praticare la propria religione di nascosto, e se venivano scoperti venivano mandati a rogo. Ora, il marranesimo non è soltanto il fenomeno materiale di chiudersi in cantina per cercare segretamente di seguire la propria fede, perché poi nel corso degli anni e nel corso delle generazioni di questa liturgia propria, di questa fede conservata in cantina, restano soltanto degli esempi puramente formali. Scusate, voglio proprio raccontarvela questa, anche se apparentemente non c'entra, ma se riflettete bene c'entra col nostro tema. Persone che hanno percorso la Spagna e il Portogallo in questi ultimi anni hanno trovato in cittadine sperdute, in piccole cittadine, delle famiglie di spagnoli e di portoghesi, comuni famiglie cattoliche, che in nulla si distinguono dalle altre famiglie cattoliche, spagnole o portoghesi, tranne che in un piccolo dettaglio che loro stessi non si sanno spiegare. Ogni venerdì sera, per vecchia tradizione familiare, scendono in cantina, chiudono le finestre della cantina e accendono due candele e poi tornano a casa loro. E nessuno di loro sa più perché. Sono le luci del sabato che accendevano di nascosto per non farsi acchiappare, per non farsi... Ecco, questa forma, che è una forma di mimetizzazione di se stessi per essere accetti alla maggioranza, questa è una forma che oggi non colpisce ancora, ma non forse in maniera più psicologica che altro, molti ebrei anche in Europa, ma che colpisce in maniera drammatica l'immigrato, soprattutto l'immigrato singolo. Questo è un problema che abbiamo di fronte e che noi possiamo capire perché vissuto sulla nostra pelle nel corso di generazioni, ma dobbiamo riuscire a superare noi stessi. Ecco, questo è proprio un compito che credo abbiamo noi come ebrei, dimenticare che non abbiamo più oggi questo problema, ma che ci sono altri che ce l'hanno, e capire meglio di altri cosa vuol dire averlo. C'è una soluzione alla quale noi tutti assieme possiamo contribuire nei loro confronti, è quella che l'unico modo per evitare questa situazione drammatica è la comunità. L'immigrato in comunità e non l'immigrato singolo. L'immigrato deve trovare una propria comunità che arricchisce noi, perché ci porta il suo a noi. E questo è un grosso problema che possiamo veramente da affrontare in comune. Credo che veramente sia un problema, altro che di dialogo, un problema nel concreto, che va forse anche persino al di là di Seul, se vogliamo, ma che ci prospetta una immensa capacità di avvicinarci ad altri. Mi è stato posto a questo proposito, mi è stata posta una domanda piena di problematica. Non mi ricordo se era Terrin che me la poneva o qualcun altro, non mi ricordo, ma scusate, tanto è lo stesso. Tanto è lo stesso. Se il dialogo non deve diventare, non deve superare la paura del sincretismo diventando una rinuncia di qualcosa di se stessi per poter entrare in sintonia con l'altro. Io darei una risposta un pochetto diversa, spostando forse un poco il centro di gravità e ripetendo quello che ho detto prima, forse in maniera un po' più estesa. Mi pare che più che rinunciare a qualcosa di se stessi, sostituirei a questo rinunciare il donare qualcosa di se stessi. Perché, vedete, io non a caso ho fatto un richiamo al Medioevo, non perché... sì, è vero, è giusto quello che mi è stato osservato, che quella richiesta, quella ricerca di verità del Medioevo non è presente nella ricerca dell'uomo moderno, ma non è questo, non era su questo che io mi richiamavo al Medioevo. Io mi richiamavo al Medioevo per far vedere come esisteva quella permeazione reciproca per cui qualcosa di ciascuno entrava nell'altro. Quando Maimonide o quando Yehuda Halevi o quando Sadia stesso, o quando Ibn Gabirol, adesso li cito pensando a precisi problemi che loro si ponevano, ognuno di loro affrontava qualche problema e ne scriveva, e lui aveva ricevuto qualcosa dagli altri. Dico, Filone Alessandrino, che è rimasto un monumento nel pensiero religioso ebraico, ma insomma... era o non era, almeno in parte, un neoplatonico? E neoplatonismo non era certamente cultura religiosa ebraica. Eppure era entrato, era stato donato, era stato ricevuto, senza rinunciare, perché Filone non aveva rinunciato a qualcosa di se stesso per poter entrare in dialogo con le scuole neoplatoniche del suo tempo. Aveva conservato se stesso e si era allargato a ricevere qualche cosa di più. Non so se riesco, forse è molto, la mia risposta è molto astratta, forse la mia risposta, per essere più concreta, richiederebbe una lettura di testi, ma la lettura di testi rischia di diventare una pedanteria scolastica e non può parlare direttamente nel senso in cui volevamo parlarci in questo momento. Purtuttavia non so trovare un'altra forma, perché questo richiamo è un richiamo allo studio, un richiamo ai testi, un richiamo al pensiero. Ora io credo che è proprio, ripeto, forse non mi sono spiegato abbastanza prima, ripeto, io credo che proprio l'esperienza di diaspora, questa condanna che al tempo stesso è stata un'occasione di arricchimento, triste, tragico, doloroso, ma tutto sommato un arricchimento, questa diaspora ha un poco offerto alla fede e al pensiero ebraico tutta una serie di elementi offerti da altre fedi che sono stati accolti e completati senza per questo di essere elementi estranei imposti o subiti, anzi sono stati accolti e sviluppati ulteriormente. Quindi offrire, stando bene attenti però, ecco, il grosso pericolo è l'altro, è quello di accentuare la propria identità in contrapposizione all'identità dell'altro. Questo è un pericolo che io ho sempre presente e che io temo terribilmente. Vogliamo un esempio liturgico molto, molto preciso e molto concreto. Io ve lo dico dal punto di vista ebraico, voi lo ripetete dal punto di vista cristiano soltanto speculare, che sembra una banalità. Io quando prego in sinagoga mi copro la testa e me la copro in modo particolare per distinguermi dal cristiano che se la scopre, e il cristiano se la scopre per distinguersi storicamente da me che me la coprivo 1500 anni fa. E dico, non è questo, estendiamo il discorso, non ce lo limitiamo alla copertura del capo naturalmente, ma facciamone un discorso più profondo. Voi sapete che io domando scusa se qualcuno mi ha già sentito, io non mi stanco a questo proposito di citare un detto hassidico molto bello, che bisogna dire sempre lentamente per che ognuno ci possa riflettere su questa conservazione dell'identità in contrapposizione, che è quello che noi non vogliamo, conservazione dell'identità non in contrapposizione. Il detto hassidico è questo, brevissimo: se io sono io, perché tu sei tu, e tu sei tu perché io sono io, allora io non sono io e tu non sei tu. Ma se io sono io perché io sono io, e tu sei tu perché tu sei tu, allora io sono io e tu sei tu. Bisogna riflettere, perché qualcuno quando l'ho detto una volta ha capito che io avessi detto non c'è possibilità di dialogare fra le persone, e no, avevo detto il contrario, l'unica possibilità di dialogare è la non contrapposizione delle identità. E questo mi porta però anche al discorso delle esperienze comuni. Vedete, secondo me in questi anni esperienze comuni le abbiamo fatte tante, riflettendo, io dico non soltanto la Mendola, anche una serie di altre esperienze a livelli diversi, riflettendo su che cosa? Riflettendo, uno, è qualcosa del passato, sì, sul patrimonio che abbiamo in comune. E quando noi facciamo delle riflessioni comuni sulla Bibbia, insomma, perché no, ce l'abbiamo in comune. Mi è stato domandato pochissimo tempo fa da un gruppo di persone di media età, ma insomma, che differenza passa fra l'Antico Testamento come lo leggiamo noi e come lo leggete voi? Ecco, ci sono alcune differenze in alcuni punti cruciali che tutti noi conosciamo e che non risolveremo né in questa né in altra sede, che so io, la storia della vergine o della fanciulla che partorirà, Ezechiele, alcuni punti controversi di letture diverse. Vabbè, il resto no, il resto non è controverso. E beh, allora dobbiamo occuparci solo di quello che è controverso e abbandonare il resto. Dobbiamo occuparci solo della voce che chiama nel deserto o voce che chiama due punti nel deserto. Sì, occupiamoci anche di questo, signori, ma occupiamoci di tanto che abbiamo in comune in questo patrimonio. E questa è un'esperienza che abbiamo fatto, che facciamo a Venezia, la facciamo piuttosto spesso, l'abbiamo fatta anche a Padova in comune. Poi abbiamo fatto una seconda esperienza, e attenzione, questa a me mi ha dato molto, è stata un'esperienza molto interessante. Si parlava della liturgia, che è una cosa seria. Ecco, la liturgia, in una delle esperienze della Mendola, io mi sono permesso di leggere a ogni riunione di gruppo alcuni brani di preghiere ebraiche, non fare la preghiera ebraica insieme, no, leggere alcuni brani prima di cominciare i lavori di gruppo, qualche anno fa. E si è scoperto insieme quanti di questi momenti di preghiera adoperano lo stesso linguaggio nella liturgia ebraica e in quella cristiana. Quante volte Avinu Sheba Shamaim in ebraico è il Padre nostro che sei nei cieli, tale e quale, nell'espressione e nel concetto. Qual è il problema? Perché la serietà della liturgia ebraica? Perché nella liturgia, la serietà, non la severità, perché ci sono due elementi. Uno sul quale ci sarebbe da fare lunghissime riflessioni e sul concetto stesso di preghiera nella religione ebraica. Tefillah, preghiera, vuol dire, e tzelotà in aramaico è la stessa parola, significa sostanzialmente giudizio. Cioè porre se stesso davanti al giudizio divino. Quindi non si fa tanto con leggerezza questo. È proprio un rapporto in cui l'uomo si fa umile perché è lui che si sottopone a giudizio, che poi il giudizio si esprima in forme diverse, questo è un altro discorso. Questo modo di essere e questo modo di esprimere la propria religiosità, sì, certo, è parziale. È parziale nel senso che non ha mai preteso e non pretende proprio nella rinuncia al proselitismo attivo, non al proselitismo attivo, non ha mai preteso di essere l'unica forma in cui l'uomo si può rapportare a Dio. È il proprio linguaggio. E non esclude l'altro linguaggio. Proselitismo non attivo, proselitismo sì, ma che richiede la capacità per chi segue questa strada di proselitismo di capire fino in fondo questo linguaggio di preghiera e di fede che lui deve assumere. Capirlo fino in fondo e esserne convinto, perché non è un linguaggio facile, non è un linguaggio semplice. Non è l'unico, non è onnicomprendente, non è certamente inclusivo, non ha mai preteso di esserlo, e tuttavia contiene un elemento di universalismo, perché il punto di vista escatologico, il punto di vista di futuro, c'è. Isaia, il concetto di Acharit HaYamim, il concetto degli ultimi giorni, il concetto del monte Sion al quale correranno tutte le genti, la profezia di Amos che dice: cosa credete voi figli di Israele di essere gli unici, ho fatto uscire, ho redento anche altri popoli, non soltanto voi, e c'è l'elenco degli altri popoli che sono stati, che hanno avuto il loro esodo. Quindi esiste un elemento di universalismo che non è stato sviluppato probabilmente per altri motivi, per motivi storici, per motivi di situazioni concrete che non permettevano, cosa poteva avere di messaggio universale il povero ebreetto perseguitato che correva via da Magonza a Spira portandosi dietro i suoi stracci. Cosa faceva? Dava un messaggio universale, cercava di salvare la propria identità se poteva, non poteva pretendere di essere lui a offrire il messaggio, a meno che non fosse il messaggio del servo del Signore che ha portato tutte le sofferenze degli altri. In questo quadro la domanda di Neve Shalom mi mette in estremo imbarazzo, perché io mi sono ripromesso di andare a Neve Shalom in questo agosto, quando starò alcuni giorni, mi sono ripromesso di andare là, non ho potuto andarci prima per vedere concretamente. Loro non mi descrivevano però in questi termini di silenzio collettivo. L'esperienza, la domanda era concreta, no? L'esperienza precisa... Arriva un'altra esperienza dell'arco Sì, sì, lo so, ma dico, non era quella dell'arca. L'esperienza che loro fanno, a quanto mi hanno raccontato, io per ora non l'ho ancora vista, è semplicemente, è discutibile, ma io rispondo alla domanda, di far partecipare i bambini, a qualsiasi famiglia appartengano, alle liturgie, alle festività e alle ricorrenze anche degli altri gruppi. Quindi i bambini le vedono tutte, i bambini sono insieme in tutte, hanno la liturgia di tutti come propria, partecipano un po' a tutti. Non posso commentare, non posso discutere, anche perché non l'ho vista personalmente. Alla domanda di informazione rispondo con quello che so fino a questo momento. Mi pare, con molti altri sono talmente d'accordo che non ho neanche i problemi di Seul, sui problemi di Seul, guardate, no, questo è molto importante, il problema del 17 gennaio, quello è molto importante, poi basta, quello guai dimenticarlo. Ecco, quello non sarò certamente io a negarne l'importanza, ho fatto un'esperienza quest'anno, ho partecipato a Livorno insieme a Monsignora Blondi, Fumagalli, il rabbino di Livorno e alcuni altri, sono stato attivo, presente in una delle manifestazioni nazionali del 17 gennaio. Quindi sarebbe assurdo che dicessi io, no, secondo me ha i limiti, questa iniziativa ha i limiti che hanno le iniziative nuove. Fino a che non si riesce a uscire dal commemorativo, come si può dire, più che rituale, dall'esteriorità, dal cerimoniale, ecco, da farne un'occasione di cerimoniale nuovo, che è molto importante, perché vederci tutti insieme là e stare insieme a discutere dei problemi concreti dell'umanità, ecologia, pace, salvaguardia del creato, era un grosso fenomeno, un grosso momento di vita collettiva, di esperienza comune, però bisogna uscire da questo inizio. L'inizio è veramente cerimoniale. Cerimonia vuole che esponenti di varie religioni, che poi finiscono con essere sempre un cattolico, un ebreo, nella nostra realtà italiana ancora non c'è molto di più, siano insieme su questi temi che facilmente ci accomunano. Vabbè, bisogna uscire da questo cerimoniale e fare un passo avanti, cioè vedere quali proposte comuni possiamo fare alla gente perché insieme con noi costruiscano questa salvaguardia del creato. Ecco, questo credo che possiamo dirlo adesso, questo si costruirà camminando insieme. Veramente io credo che non possiamo mettere un punto finale a questo processo, io credo che è un processo che va costruito attraverso l'esperienza, non attraverso un programma in astratto, attraverso l'esperienza. E da questo punto di vista vengono bene l'amendola, l'agape, camaldoli, urbino, tante altre sedi, Trento, tante altre sedi nelle quali possiamo parlarci in maniera fraterna e per sviluppare l'amicizia nel concreto. Grazie nuovamente.